Come macchiastra, mangiate il cuore, e tu sangue tergerà. Dio lo disse, Dio la scrì. Al fratel si indulgerò. quanto infelice fui da te lontano. Onde trionfi il mondo te lo splendido fanto e di piacer ti inganni tu con me, con me non è. Rimorso vi fa guerra, figlio solo d'un delirio. quel silenzio accusatore, a chi occava fulminato mi avessi pur la terra, su me scaglia sul cremato se mi colse il viso l'or, su me scaglia sul cremato se mi colse il viso l'or. Oh, Voi al padre di dolore, oh! Thank you. Yeah. farollo io stesso. Una lettera. Il cielo. Amma legge tal foglio concesso. Io scrisse gli spetti ignorate. Io dal puro prendetela il po'. Vecchio su, prendetela. Let's go.